Io dico una cosa molto impopolare, ma in questi 10 secondi, se me li dà, sì, io gli vada. Siccome se si vuol far partire la domanda interna, bisogna partire dal lavoro, altrimenti non succede nulla. Gli investimenti generano domanda a 3 anni data, la ricerca a 10 anni data, l'export non si può fare più di così per via della svalutazione, che non possiamo fare perché siamo nell'euro. Dobbiamo ripartire dalla domanda interna, dal lavoro. Il lavoro deve avere più redditi, e per avere più redditi l'unica strada è ridurre il cuneo fiscale. Chiaro che c'è un gap, c'è un buco di bilancio, perché c'è qualcosa da recuperare. Chi lo deve sostenere? Allora, chi mi fa in campagna elettorale proposte di riduzione delle imposte, io non lo voto, perché non gli credo. Non si possono ridurre le imposte, ma a chi si devono applicare le imposte? Non si possono applicare ancora di più alle famiglie, ai cittadini. A chi? Bisogna applicarle alle imprese. Io faccio impresa. O sono scemo o so quello che dico. Forse sono scemo. Ma io credo che bisogna essere pronti a chiedere alle imprese un aumento di imposte, quindi qui non mi saluterà più nessun imprenditore da domani, non importa. Per un periodo limitato, tipo 2 o 3 anni, una specie di imposta supplementare che mi deve finanziare però, e deve essere utilizzata interamente a beneficio del risparmio che io come imprenditore avrò sul minor costo del lavoro per l'abbattimento del cuneo fiscale. Ho capito sì. Benissimo, lei dice tassiamo di più le imprese in maniera diretta, però riduciamo il costo, le tasse in busta paga, e quindi c'è un vantaggio da un lato per un costo del lavoro più basso delle imprese, dall'altro perché ripartono i consumi.